Ecco il passaporto e questa è la chiave. La camera è la 37. La 37? Bene. È al terzo piano. Room 37 on the third floor. C'è l'ascensore? Certo, a destra. The lift is on the right. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera. Buonasera.